con Patrizia Salvatori dell'Alphaville Cine Club per parlare dell'Alphaville d'estate al Pigneto, a Roma, al Centro Anziani Pigneto, dal 23 luglio all'8 settembre 2019. Patrizia, ben trovata. Grazie, un saluto a tutti voi, un saluto a te carissimo Federico, sono contenta appunto di dare questo nuovo annuncio, anche se con un po' di ritardo. Quest'anno appunto l'Alphaville d'estate inizia, contrariamente agli anni precedenti, il 23 luglio, però insomma inizia con un programma molto forte e soprattutto con un proposito da qui all'8 settembre, dal 23 luglio alle 21, all'8 settembre alle 21, un'estate di libertà. Perché diciamo questo? Perché rispetto appunto a tutte le rassegne che noi abbiamo realizzato, a tutte le manifestazioni legate alla Arena Estiva che noi abbiamo realizzato, questa è una manifestazione, Federico, in cui non ci sono rassegne a tema, non ci sono rassegne sugli autori. Ed è la prima volta in questa 17ª edizione da quando è nato Alphaville e da quando c'è l'Arena che c'è un'estate di libertà totale. Ogni sera un grande capolavoro, ogni sera un film che piace, speriamo, insomma, del passato molto passato, del recente un pochino più recente, che ci farà condividere insieme questo bellissimo, diciamo, questa bellissima situazione atmosfera che è l'immagine del movimento all'aperto. Considerato quello che dicevi all'inizio, e ne parlavamo anche prima di iniziare questa conversazione, volevo chiederti, ecco, che tipo di difficoltà sta vivendo la cultura e nello specifico il cinema a Roma oggi? C'è un'effettiva difficoltà che è dovuta alla mancanza di, come dire, forse proprio visione d'insieme del territorio, della città e anche alla mancanza di contributi, di aiuti, di facilitazioni, almeno per quel che riguarda alcune delle logistiche, insomma, dei luoghi e soprattutto delle associazioni che da sempre hanno garantito, seppure in maniera molto, come dire, piccina dal punto di vista economico, ma hanno sempre garantito grandi attenzioni sul territorio, proprio come dire una sorta di postazione territoriale, presidio territoriale, per esempio come noi nel Pigneto. Qual è le difficoltà? Le difficoltà sono innumerevoli, non c'è, cioè, forse proprio una delle prime difficoltà è quella di non avere appunto questa visione d'insieme e quindi beh, chiaramente quando poi si devono realizzare come ogni anno le cose ci possono essere delle difficoltà. Quest'anno noi abbiamo iniziato molto tardi perché purtroppo appunto c'era arrivata la nostra giunta municipale un diniego ad aprire questa arena per motivi legati probabilmente a richieste da parte del centro anziani del tutto ingiustificate che non avevano nulla a che vedere. Ecco, da lì è nata una situazione particolare. Io ho chiesto il sostegno di tutti gli associati che si sono riversati in massa scrivendo per i medici Federico email in continuazione e poi la situazione in qualche modo si è capovolta perché io ho potuto dimostrare insieme con il mio consiglio direttivo, ho potuto dimostrare che quelle accuse gli anziani volevano contro noi sporcare, lasciare tutto in disordine, ma figuriamoci, erano accuse strumentali. Probabilmente siamo finiti in una situazione, non so come poterla definire, appunto, che ci ha portato quasi a non fare più l'arena con tutto ciò che questo comporta, perché noi siamo in un posto come il Pigneto, insomma, che ha cose bellissime e cose bruttissime, c'è molta movida, ma non solo. Noi lì abbiamo sempre presidiato, sempre le luci accese, sempre di notte, quindi insomma, con programmazioni elevatissime di qualità, utilizzando lo spazio come il centro anziani, che è una sorta di, come dire, di luogo del municipio, come in tutti i municipi, di unione, di condivisione, di rapporti trasversali tra i giovani e anziani, e che però a un certo punto, diciamo, evidentemente c'era qualcosa che non andava, non so che cosa, poteva essere qualunque cosa. È difficile questo, senza contributi, senza la possibilità di poter avere un riferimento preciso. È vero che poi, insomma, noi abbiamo trovato molti appoggi proprio affettuosi anche all'interno della stessa giunta verso di noi, però insomma abbiamo vissuto momenti davvero particolari e penso che tutti i momenti erano momenti passerebbero stati se non avessimo avuto la possibilità di aprire nuovamente, sarebbero stati momenti difficili, quindi per dire che, sì, per dire che non l'avremmo proprio aperta in una città desolata e desolata, come abbiamo detto prima, Federico, sì, dove c'è un grado di declino spaventoso, cioè se al Pigneto togli pure questa piccola arena che da 17 anni, diciamo in qualche modo, aiuta anche la, il resto della città a venire al Pigneto, quindi in qualche modo c'è questo, no? Questo scambio, questa energia. No, è stato difficile, io non so in che cosa siamo finiti, l'importante è che ne siamo usciti. Patrizia, quanti sono i titoli in rassegna e quali sono stati poi i criteri di scelta? Allora, quest'anno, come ho scritto nell'incipit del comunicato stampa che tu hai ricevuto, Federico, abbiamo le prime tre volte dell'Alphaville d'estate, questa estate in libertà. La prima volta abbiamo detto iniziare proprio per i motivi di cui parlavamo prima a fine luglio, e quindi per noi la prima volta in assoluto, abbiamo sempre iniziato a fine giugno, e quindi i giorni non stanno più quelli che erano due mesi e passa, ma sono dal 23 al 8 settembre, quindi sono 40 giorni circa. La prima volta senza castigna e tema d'autore, e quindi assolutamente privi di questo contenitore settimanale che invece caratterizzavano la Nena negli anni passati e che caratterizzano comunque il Cineclub Alphaville nelle sue, nella sua stagione invernale, e la prima volta con un'intera settimana, fine settimana, dedicata a film a sorpresa, cioè dal 4 settembre al 8 settembre non ha invitato nessun tipo di titolo all'arena, ma chi verrà, verrà sulla fiducia di un cineclub ormai storico della città, e quindi proporrà un film che però nessuno sa, gli altri titoli sono che nessuno sa, ma insomma è una cosa carina, anche perché sono comunque film capolavori, film di qualità, vuol dire che in più ci sarà questa sorpresa di conoscere il titolo del film da condividere tutti insieme nello stesso momento in cui ci viene all'arena, proprio uno spazio sulla fiducia, diciamo, no? Una idea che è una cosa che mi commuove tanto, appunto, ripeto, che già è successa proprio per quest'estate con il sostegno al Cineclub. I titoli sono appunto circa una quarantina, forse qualcuno in più, sono titoli selezionati con criteri legati appunto alla, alla voglia di vedere grandi registi, grandi autori, grandi capolavori, c'è Jean Renoir, c'è Fassbinder, senza soluzione di continuità, quindi uno per sera, c'è Claude Chabrol, c'è Mauro Bolognini, c'è Dite Voi, c'è un po' di tutti, c'è, abbiamo veramente una selezione, c'è per esempio One Per Why, c'è anche, ancora il cinema orientale, c'è Takeshi Kitano, ma c'è anche il cinema francese con Jean Gabin, ci sono sei martedì dedicati a sei, ecco queste sono le uniche cose che sono rimaste un pochino, diciamo, come temi, so, a sei temi diversi, c'è iniziamo con l'allunaggio e quindi Cinderella di Luna, e quindi cose riguarda film e proposte dedicate alla Luna, per esempio La donna nella Luna di Fritz Lang, per dire, sequenze di questo bellissimo film del 1929. E abbiamo poi, per esempio, sempre di martedì, ecco che sono, ripeto, gli unici schemi, gli unici temi trattati come facciamo sempre nell'Alphaville, c'è la Tintarella, c'è il Muro di Berlino, c'è una serata dedicata agli anniversari di Jean Gabin e di Jean Renoir, c'è una bella serata dedicata a Bette Davis con Le Maddalene d'Agosto, film incredibile, insomma importantissimo, della storia di questa attrice hollywoodiana, davvero una grande star, c'è appunto il ricordo di Humphrey Bogart, e poi in tutto il resto è veramente una sorta di, come dire, di giro tondo, se vogliamo citare il Schnitzler, in cui ogni sera davvero è possibile vedere grandissimi, grandissimi film. In più, Federico, fuori schema abbiamo appunto il 24 un concerto proprio diretto dal vivo, ma bello veramente, perché è molto cinematografico, del duo Jarmusch Mude, in onore di Gino Jarmusch, che calza le scene romane da parecchio tempo, Rosa Lux e Marcello Convertini, due chitarre di una voce, quella di Marcello Convertini, che tra l'altro è anche uno splendido storyteller, canta, suona e contemporaneamente racconta tra un pezzo e l'altro frazioni, che diciamo, come dire, quasi short film dedicati alle musiche che suona, ma anche dedicati alla città, dedicati ai protagonisti di queste musiche, che spesso hanno a che fare appunto con grandi musiche della storia della musica, John Weiss, Tom Weiss, scusami, e anche Cohen, e soprattutto appunto che hanno a che fare anche con queste carrellate cinematografiche. cioè per me poi c'è una cosa anche molto bella, questa veramente mi fa piacere sottolinearla, il venerdì 2 agosto il nostro associato che si dedica anche agli short film, al cortometraggio e alle video installazioni, Fabrizio Castellani, presenta insieme appunto con il suo collaboratore Colucci una sonorizzazione dal vivo di un loro cortometraggio dedicato ad una sorta di post Blade Runner a Roma, quindi installazioni architettoniche in short film con sonorizzazione dal vivo. Questa è una cosa spectrum, si chiama, e precede diciamo la proiezione del 22 agosto, è veramente una cosa interessante. Poi ci saranno incontri, personaggi, persone che entreranno, persone che rimarranno, insomma tutto quanto fa Alphaville e la città di Roma nella sua piccola grande estate. In chiusura, Patrizia, ci lasci tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Certamente, basta, allora, ci sono vari modi per arrivare al Cineclub Alphaville, uno dei più facili di tutti e il più sicuro, perché lo scriviamo noi il programma, è www.cineclubalphaville.it, basta aprire il sito, sulla destra si può scaricare, si può vedere il programma e scaricare tutta diciamo, la nostra programmazione, ma siamo presenti anche in vari motori di ricerca, quindi non è difficile trovarci. I nostri numeri per chiamarci sono 339-3618-216, che è un appunto un numero passepartout, se ci chiamate, se mi chiamate, comunque si risolve un po' tutto insieme. Vi ricordo tra l'altro che noi siamo dentro appunto a questo centro degli anziani, che è una tettoia, quindi se dovesse piovere, certo non hanno più fratto, non hanno più universale, ma se dovesse rigirare, noi comunque proiettiamo lo stesso, perché c'è la tettoia e si sta bene. E vi aspettiamo, insomma, anche a te, Federico, naturalmente. Bene. Allora, ricordiamo, 17ª edizione di Alphaville d'estate al Pigneto, a Roma, al Centro Anziani Pigneto, dal 23 luglio all'8 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Patrizia Salvatori. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo, Patrizia. E credi, e vi auguro un'ottima estate a tutti, anche a te.